processo di liberazione che nasce in un contesto sociale, culturale, politico di un certo tipo, anni 60, anni 70, io mi ostino sempre a rimarcarlo questo perché è importante, e la storia, credo, non quella di oggi, ma futura, questo lo dirà e lo farà venire fuori, perché oggi un po' c'è il tentativo invece di neutralizzarli e distruggerli quegli anni nella loro portata di liberazione, no? Nasce in quegli anni, diciamo, questo percorso, non lo definirei ancora movimento perché spiego poi cosa intendo per movimento, un percorso di liberazione che, dico io, si muoveva a tentoni perché era tutto nuovo, tutto da scoprire, un po' come lo riporto in Antologaia, e quindi era tutto in evoluzione, tutto quindi in sperimentazione, e quando, diciamo, i percorsi sono nuovi, il rischio è quello della contraddizione, non voglio usare il termine sbaglio, assolutamente, della contraddizione, ma la contraddizione ci sta, la faccio propria, anzi me la rivendico, perché dalla contraddizione nascono percorsi, nasce pensiero, nasce prassi, nasce liberazione. In questo percorso che parte da lì e arriva ad oggi, cosa ha fatto il movimento GLBT? All'inizio, in quella grande officina, in quel grande laboratorio degli anni 60 e 70, il nostro percorso era lo stesso di donne, di neri, di tutti i gruppi, minoranze, esperienze che fino a quel momento erano state negate e che in quel momento esplodono, ma esplodono non solo in Italia, esplodono in tutto il mondo, cioè quindi è una grossa carica, una grossa spinta verso i diritti. Io stessa, e torno un po' al personale, lo intreccio il personale politico perché sono legati, io stessa, se non ci avessi avuto, quello substrato, quell'ambiente, quell'atmosfera, magari oggi, dico, stavo da tutt'altra parte, non stavo qui, non avrei fatto coming out, non avrei iniziato un percorso mio e collettivo che mi ha portato qui oggi, un percorso che mi fece fare outing in una scuola superiore di un paesino del sud, cioè lo dico perché è importante, perché credo che oggi tutti i cambiamenti che ci sono stati, questo coming out nello stesso luogo, negli stessi posti, con gli stessi contenuti, non dico sarebbe impossibile, sarebbe diverso, però comunque ha tutt'altro senso e tutt'altro significato, e non so se con lo stesso effetto. Ecco. Cosa c'è stato? Cosa è successo? Io in tutto questo percorso di 40 anni, sì, sono esattamente dal 28 giugno 69 e 42, giusto? 2011, 42, in questi 42 anni ci sono state tutta una serie di cose. Io qui però pongo due questioni sulle quali riflettere, sulle quali approfondire, sulle quali magari aprire una chiacchierata. Uno, la delega, e l'altra è l'oblio. Non ho voluto usare la memoria perché è un termine che, essendo molto usato nei nostri ambienti, poteva dar per scontato delle cose che non sono scontate, ma ci tengo a parlare proprio dell'oblio come fatto, come esperienza che ha significato una serie di cose, a mio avviso, molto importanti, negative, ecco, e la delega. Allora, anticipo e premetto, comincio con la seconda, perché credo che sia stata un po' la causa dell'oblio. anche se i due, diciamo, le due parti, i due livelli si intrecciano. Finito diciamo, la carica propulsiva del movimento in generale, dico GLPT perché è quello che ci riguarda qui, ma più in generale, diciamo, un movimento di liberazione, alla fine degli anni 70 comincia il cosiddetto riflusso, anche sui termini, io spenderei un po' più tempo e mi ci soffermerei, perché i termini usati, e non so se coniati dal movimento, coniati da noi o da altri, e questo fa la differenza, i termini, le parole hanno avuto la loro importanza, perché le parole hanno fatto la realtà e la realtà ha fatto le parole, e poi vedremo oggi poi quali sono le parole che vengono usate e quelle che non vengono usate. Un movimento propulsivo che non era fatto di delega, era di partecipazione diretta, era un movimento in cui la coscienza chiara, netta, era: non abbiamo nulla da perdere se non le nostre catene. Cioè, era questo l'assunto. Avevamo alle spalle un nulla, avevamo alle spalle il vuoto totale, avevamo alle spalle la nostra negazione, che era fatta di roghi, era fatta di manicomi, era fatta di lager, di tutto quello che ci aveva negato, di tutti, diciamo, quelle mosse messe in atto da un sistema per reprimere, per diciamo, e per negare. In quel momento tutto questo viene sconvolto, ma era noi che lo sconvolgevamo, era noi che ci mettevamo la faccia questa e noi che ci mettevamo il corpo, noi che ci mettevamo tutto, nel senso che rivoluzione era rivoluzione totale, che non riguardava un pezzo, una parte, ma riguardava tutto noi stessi, tutto il mondo, tutta la nostra vita, perché era proprio quella che andava cambiata e andava trasformata per riprendercela. E in tutto questo c'era una costruzione di senso nostro. Questo un po' è, diciamo, l'ho toccato nelle frasi iniziali, perché il senso della nostra vita viene dato da altri e non da noi, viene dato da un sistema in cui noi viviamo, che non è un sistema, non dico nulla di nuovo, basato su, diciamo, dei valori ben precisi. È un sistema, torno a usare il termine di Mieli, nonostante può sembrare sorpassato, ma lo trovo molto attuale, vetero patriarcale. E quindi quel sistema dà il suo senso e il suo significato, e dovremmo chiederci quanto noi assorbiamo di quel senso e di quel significato nella nostra vita. Chiaro che quel sistema nega l'omosessualità, nega la transessualità, nega tutto quello che esce da quelli che sono i suoi valori pregnanti e costituenti e su cui si basa. Un riferimento: se famiglia, patria e chiesa sono, diciamo, gli assi portanti, no? Si dice della destra, ma la destra è uguale a quel sistema. Parole che possono sembrare fuori tempo, ma che sono attuali, perché vengono riciclate, rielaborate in forme moderne e postmoderne, ma di quello si tratta. E non credo di dire nulla di nuovo, di stravolgente, quando asserisco che in quella logica, in quei valori, noi, in quanto gay, in quanto omosessuali, in quanto transessuali, non ci rientriamo, non possiamo rientrarci. Forse, qui lo dico, apro una parentesi ma la richiudo perché ci sarebbe tanto da parlare, ci potrebbero rientrare tutto al più, ma dico tutto al più, ma non ci sarebbe da ascoltare, le persone transessuali che si operano e cambiano sesso, magari per una questione di, come dire, di rientro in quelli che sono i canoni, quelli che sono, diciamo, i generi o i sessi su cui si basa il sistema. Però, ripeto, chiudo la parentesi perché su questo ci sarebbe molto da... e non è l'argomento mio e di Graziella. Quindi, è matematico, e assumo da, diciamo, dalla matematica un po' il ragionamento che non ci starebbe in un discorso di quello che stiamo facendo io e Graziella, però è proprio la matematica che può rendere l'idea, cioè il famoso 2 più 2 fa 4. Se io non sto a quel sistema, non capisco come quel sistema potrebbe stare a me. Partiamo da questo. Quel sistema cerca di annientarmi, di annullarmi, perché sta nella sua logica. E di esempi ne potrei citare infiniti. Quel sistema ultimamente, con forme diverse, con parole diverse, si sta riprendendo quello che noi avevamo, ci eravamo ripresi negli anni 60 e 70. Quel sistema si sta riciclando, e ne potrei citare tante di cose, l'ultimo, il referendum della Fiat, è quello. Le dichiarazioni di Ratzinger, e qui come breccia pure ci potremmo allungare a dire tutto quello che hanno fatto e tutto quello su cui si stanno muovendo. In Europa hanno avviato una politica di accordo, di intreccio, di intesa con i paesi dell'est e con le chiese ortodosse, che sono quelle che più, diciamo, marcano certi valori, e le stanno cercando di far passare all'interno dell'Europa. Cioè, ma sto usando degli esempi, ripeto, non mi ci soffermo e non ci entro dentro. Per cui queste cose mi sembra poco serio, poco matematico, ecco, non riuscire a vederle. Per me sono scontate, mi chiedo, sono scontate perché ho una coscienza, ho un ricordo, ho una memoria, o è vero che bisogna ritirarle fuori, bisogna parlarne, ma come? Perché le parole non ci sono. Quindi in un mondo, in una situazione in cui ci abbiamo un confronto continuo e costante con questo sistema, un sistema che ti entra dentro e manco te ne accorgi, perché è così subdolo che non ci rendiamo conto di quanto noi riproduciamo quel sistema. In questo modo il confronto, che poi tradotto significa lotta, lotta per i diritti, se vogliamo renderlo molto più semplice come argomento, o è costante, o è attento, o è chiaro, o viene meno. E quello che c'eravamo preso, piano piano, lentamente, subdolamente, ci viene sottratto. Ecco, in questi 42 anni, credo che quello che sia successo è stato questo, cioè una storia, una fase, diciamo, successiva, e una restaurazione, concedetemi anche questo di termine, in cui si stanno riprendendo quello che noi ci eravamo ripresi. Cioè, in Italia, volendo parlare anche di livelli che magari non appartengono direttamente al movimento, a un livello politico, diciamo, più istituzionale, dall'agenda politica è completamente sparito la questione dei diritti di gay, lesbiche e transessuali. Addirittura sono sparite le parole, quindi in agenda non ci sta più nulla, anzi parlare di omosessuali e di transessuali è meglio di no, perché sono i cosiddetti terreni scivolosi. Allora io dico, davanti a una questione così chiara, così evidente, così eclatante, cioè, come si fa a non vedere che è in atto un percorso diverso, anzi la controtendenza a quello che era un processo di liberazione? Dove voglio arrivare però con questo discorso? Voglio arrivare a un oggi in cui quella logica di potere ha agito, ha operato subdolamente, profondamente, ha trasformato la realtà, ha trasformato le parole, ha trasformato la realtà al punto in cui io mi ritrovo al nostro interno di una scena, all'interno di una scena, non al nostro interno più, non riguardo bene l'andillo, all'interno di una scena GLBT con persone che si pongono dall'altra parte e contro di me, contro di noi, nel rivendicare dei percorsi che non sono loro. E qui ritorno sulla matematica. Se il 2 più 2 non è un'opinione, per quanto detto e per dove nasce il nostro percorso di liberazione e da chi era negato, allora mi chiedo come si fa a organizzare un Pride, ecco, volendo essendo, usare diciamo esempi più vicini a noi, come quello del 2010, quello dell'anno scorso a Roma, organizzato da persone che si collocano politicamente dall'altra parte, persone che ce l'hanno con gli immigrati, con le prostitute, con le trans degeneri, e ricordiamo che la bottiglia l'ha lanciata una trans degenerata, prostituta, immigrata, che ce le aveva tutte, ecco, allora qui evidentemente, molto matematicamente, è cambiato il senso ed è cambiato il significato. Ma quando cambia il senso e il significato, cambia anche il significante, cambiano anche le parole. Per cui la confusione, ecco, da cui è partita, non è più la nostra confusione, la confusione di genere, la confusione che provochiamo volutamente, quella confusione che portiamo dentro, che sarebbe la non chiarezza loro, ma è una confusione veramente di punti di riferimento. Io credo che se non si chiarisce questo, di passi avanti non se ne riescono a fare. È chiaro che l'argomentazione che viene posta molto più frequentemente è quella che gli omosessuali, i transessuali, le transessuali non sono né di destra né di sinistra, o possono essere di destra o di sinistra, però le persone transessuali, omosessuali, lesbiche, donne che hanno avviato un percorso di liberazione che ci ha portato qui oggi, sono, e lo rivendico e non c'ho nessun problema perché è matematico, sono di sinistra, perché è quella storia, è la nostra storia ed è collocata in un percorso preciso. Ritornando alla contraddizione, e qui mi avvio alla, diciamo, alla chiusura, lascio la parola a Graziella, la famosa contraddizione che per me era crescita perché era nuovo, ora io questa contraddizione la ribalto, dico è una contraddizione tutta interna all'altra parte che dovrebbero risolvere, me la dovrebbero spiegare, perché a me non basta più dire l'omosessuale o la lesbica o la transessuale possono essere di destra o di sinistra, no, assolutamente, perché ti sei riappropriato di un progetto di un processo di liberazione che è nostro, che ci ha portato da Silvia Rivera a Mario Mieli a qui oggi dove ci troviamo, e diciamo l'elenco di queste tappe le potrei fare, anche le mie personali, da quando, diciamo, dal mio stare nel circolo Mario Mieli, prima Narciso, quando fu fondato con Marco Sanna, con tutto il percorso, i dibattiti che ci sono stati, con tutte le lotte che ci sono state, che non erano assolutamente diverse, all'epoca non era concepibile neanche che si potesse ipotizzare o parlare di una trans o un trans, un gay, una lesbica di destra che stesse nel nostro processo di liberazione, che ce n'erano, lo sapevamo, Zeffirelli, figurati, cioè, ma non nego questo, ma il processo di liberazione, la battaglia per i diritti, visto anche chi ce la nega, dovrebbe essere chiaro, come è chiara la matematica, per questo oggi per la prima volta mi sto ostinando a parlare di matematica, con una maniera abbastanza grezza se vogliamo, perché cerco di condensare la questione, però è questo. la delega, perché prima ho fatto riferimento alla delega, perché negli anni più o meno 80, ecco, volendo datare l'esperienza, il percorso, subentra dopo tutta l'arrivo dell'AIDS, che ha fatto la differenza. Su questo il movimento GLBT non ha ancora fatto una riflessione seria su cosa è stato e cosa ha significato l'AIDS in Italia e nel mondo. E una riflessione va fatta, perché non è qualcosa che è alle spalle, è qualcosa che ci appartiene, perché fa parte della nostra storia, e la nostra storia ci appartiene, e abbiamo il dovere di riappropriarci della nostra storia, anche di riflettere su quali sono stati i passaggi della nostra storia. L'AIDS, come tutte le pesti, ha segnato fine di epoche e l'inizio di altre, impostate su quello contrario che c'era prima. Tutto potrebbe essere concentrato nell'assunto che il corpo negli anni 60 e 70 era centrale, e il corpo liberato, il corpo liberante, da lì sono partite le battaglie per l'aborto, per il divorzio, le nostre battaglie che riguardavano il corpo fondamentalmente. Era da lì che si partiva, ed era quello centrale in tutto, e subito dopo il corpo è diventata la fonte di pericolo, la fonte di rischio da cui guardarsi, e questo culturalmente, politicamente ha significato tantissime cose che ci sono entrate dentro, che stanno dentro, e che di cui noi non abbiamo coscienza. Quando parlo di non abbiamo coscienza, mi riferisco a una coscienza più collettiva, e sulla quale andrebbe fatta una riflessione, un passaggio da una, dico io, in antologaia, cioè questo ho cercato proprio di riportarlo, da un laboratorio di liberazione alla clinica, una clinica in cui c'era la prevenzione, l'informazione, l'intervento, perché dovevamo intervenire su quello, ma non c'è stato uno scatto successivo, non c'è stato uno scatto di coscienza su cosa ha significato la peste gay, ecco, era chiamata, era proprio uso i termini, cosa ha significato la peste gay per noi. Quindi queste, diciamo, riflessioni un po', diciamo, sparse, no? Che io lancio, a mio avviso sono e dovrebbero essere momenti di approfondimento e discussione per il movimento tutto. Faccio solo un esempio e poi lascio, perché mi credo di essermi dilungata troppo, ma al primo convegno del movimento qui a Roma nel 79, al convento occupato, al primo convegno del movimento, perché prima c'erano stati altri convegni che erano organizzati dal fuori, e anche un po', concedetemi di fare una distinzione tra il fuori e il movimento. Il fuori aveva come centrale la questione omosessuale, slegata da un po' quelli che erano, diciamo, i problemi, le questioni e altri percorsi, per cui era qualcosa di slegato, mentre invece per il movimento la questione omosessuale e transessuale era in stretta relazione con tutte altre questioni sociali e culturali, con tutti altri percorsi di liberazione che erano quelle delle donne, che erano dei neri, degli operai. E perché lo dico? Perché in quel convegno, nel primo convegno del movimento, una delle mozioni finali, una delle mozioni finali fu un comunicato di solidarietà e vicinanza con gli operai della Fiat che erano in sciopero. Oggi per un movimento GLBT è incomprensibile, è inconcepibile che lotte e percorsi come quelli della Fiat o i nostri possano essere sincronizzati, possono avere delle attinenze, delle vicinanze, delle corrispondenze. E questo credo il grave, perché ho cominciato dicendo che la preistoria era tutto sparpagliato, cioè i pezzi del collage, del mosaico erano sparsi dappertutto, e quella bottiglia lanciata è stato il primo collante che ha cominciato a unire tutto questo. Ecco, oggi il sistema, il vetropatriarcato, sul termine ancora, ha di nuovo sparpagliato tutte queste tessere, e noi fatichiamo, sudiamo, sanguiniamo, piangiamo nel rimettere insieme pezzi che faticosamente e lentamente avevamo messo insieme. Poi questo è il mio intervento che volevo fare con l'aiuto di video, però non ho avuto il tempo di montarli e di assemblarli, e con una performance molto più forte, perché credo che ci dobbiamo riprendere la performance, dobbiamo uscire da il solo parlare, cioè dobbiamo entrare nella provocazione, quella che era la nostra dell'inizio, proprio per rispondere alla negazione che subdolamente arriva per negarci la vita. Quindi la performance è per me fondamentale, come fondamentale l'azione, come fondamentale la teoria. Sono elementi che ci devono essere, ma non facciamo l'errore di privilegiare o vederne solo uno, solo un piano e non altri. Cioè fanno parte di noi, della nostra storia, del nostro percorso, utilizziamola, e chiediamoci qual è la cosa più importante ogni mattina che ci svegliamo, cioè qual è la cosa importante oggi da fare. Stop. Quanto si suda con le parrucche. Me l'ero scordata. Me l'hai dimenticata, eh? Sì, ma...